Sempre sul pezzo, oserei dire pezzo. Oggi ci sono pure io, quindi ci divertiamo ancora di più. Oggi abbiamo spodestato Lorenzo e ho un nuovo compagno di avventura. Pensa a te che culo. Ricky. Ciao a tutti e tutte. E siamo quasi pronte e pronti per andare insieme in Palestina. Intanto vi lasciamo con un po' di musica. وصاروا الكلمات بتاعتنا دخلوا هجموا اجتاحوا اقتحموا انسحبوا من الحارة الشرقية جرحوا ضابط على الدبابة جنود صرعوا وصاروا الكلمات بتاعتنا دخلوا هجموا اجتاحوا اقتحموا انسحبوا من الحارة الشرقية جرحوا ضابط على الدبابة جنود صرعوا وخلوا ليل الناس جهنم وعلى جهنم على الصبح انقلعوا خلوا ليل الناس جهنم وعلى جهنم على الصبح انقلعوا واحفظها ارقام الدبابات من اي معسكر جايات هيا اللي جاي لك روح ومن جاي لك بات صرنا نعرف نوع الفرقه من الامتين ولون الزين حفظنا حتى عيار الطلقه اللي يلي يلي يلي خزقت خزان المي لا لا لا لا لا خزقت خزان المي لا لا لا لا لا لا خزقت خزان المي لا لا لا لا لا لا خزقت خزان المي لا لا لا لا لا لا لا تغير حكي الشارع عنا واحنا تغيرنا تغيرنا وصار بشعر الحب يفوت الرشاش ولوح التابوت ومطرح كلمة ميت فيكي حلت كلمة اوعى تموت اوعى تروح وما ترجعلي صار الشاب لو غافل دبابة وحب وقالت له اللي بحضنه بتخفي احكي لي عن حالك نتفي يبلش يوصف كيف تصاوب كيف تصدى كيف تحمل اسبوعين يفطر خبزه ما يتغدى كيف تحايل على الدورية وكيف تخبى من القناصة ولما يفاجئها بهدية يلبسها بسنسان رصاصة واحفظنا ارقام الدبابات من اي معسكر جايات هيا اللي جاي لتروح والجاي لتبات صرنا نعرف نوع الفرقه من الامتين ولون الزين حفظنا حتى عيار الطلقه اللي يلي يلي يلي خزقت خزان المي لا لا لا لا لا لا خزقت خزان المي Io vedo dalla distanza Giulia che balla oltre il vetro che ci separa per sicurezza. E le mascherine, mascherine. E i guanti. Ma cioè, è impossibile stare fermi con queste musiche, no? Sì, sì, è vero. Non è che vedo Giulia, vedo più una figura lontana che si muove. Io invece sono fermo, non mi tange questa musica. Come fai a rimanere fermo con questa musica? Niente, mi dispiace. È qualcosa che proprio ti entra dentro i pori. Questa e ti dà quella... non mi prende. Se tu mettessi Caramella Sexy Lady, forse senti, li potrei ballare. Parlare di certe canzoni, mia presenza soprattutto durante il mio programma, il mio programma sulla Palestina. Canzone altamente sessista. So che questa è la prima e ultima volta, mi spiace per i genitori di Riccardo che sono probabilmente all'ascolto. Lui è tanto carino e simpatico, ma a volte c'è cose che non vanno per niente bene. È stata la colonna sonora del nostro ultimo viaggio, quindi è comunque bella, a prescindere dal testo. Ma allora, diamo un po' un'anticipazione. Siamo sempre in due, come poco fa. Siamo sempre io e Riccardo, io sono Giulia. Io sono Riccardo, appunto. E oggi il programma sulla Palestina è dedicato ad un tema molto, molto delicato, ma molto importante. Oggi parleremo di... prigionieri. I prigionieri politici palestinesi. Vi anticipo subito che ieri è stata la giornata ufficiale per i prigionieri politici palestinesi, il 17 aprile, è stata lanciata una campagna di supporto, una campagna internazionale, dove è stata richiesta appunto la partecipazione di tutti i compagni, amici, sostenitori della causa palestinese in giro per il mondo. Per il mondo. E oggi appunto proprio per questo motivo volevamo dedicare la puntata a questo tema E ne parleremo con due persone, ovviamente, da laggiù. Con due persone di cui almeno una ha avuto questa esperienza. Tutte giusto? E due. Tutte e due, okay. Tutte e due sono state dei prigionieri politici. E quindi hanno anche, se vorranno, perché appunto non è sempre così scontato, raccontare un po' della loro esperienza, ma anche del lavoro che fanno, spiegarci alcune questioni anche legali e tecniche un po' particolari che avvengono laggiù in Palestina a causa del governo israeliano. E appunto, come anticipato, non è proprio una puntata facile, non è un tema leggerissimo, ma metteremo tanta buona musica. Li abbiamo incontrati, almeno io li ho incontrati la prima volta nel viaggio che ho fatto con West Climbing Bank 2 anni fa. E beh, possiamo dire i nomi. Certo. Una sarà Naji, che abbiamo già sentito forse anche la scorsa volta. No, Naji la prima puntata. La prima puntata l'abbiamo chiamato. Esatto. Naji è colui che ci ha ospitato a Lilac, dove dormivamo durante questi viaggi. E vabbè, insomma, già lo conoscete perché l'abbiamo già sentito, ma è una persona con di una grande altezza morale. E poi c'è Miassar, che Miassar è tosta. Miassar non si può neanche definire, cioè non ci sono parole possibili sufficienti per definirla. È una donna fantastica, potente, travolgente. Miassar è quasi difficile credere di avere, come dire, l'onore, e non esagero, di parlare con lei. È successo, a me è successo 2 volte, e insomma, da quello che racconta si capisce che ne ha passate tante, eppure rimane salda nei suoi principi e nei suoi valori. Proprio una bella persona. Allora, intanto, qualche pizzico di anticipazione l'abbiamo dato. Vi mandiamo ancora un po' di musica palestinese. E poi ci inoltreremo a capofitto in questo nella tematica della giornata. Some records in the building. العودة علاقتي فيها زي البلاد والفوضى كل تفاصيلها بتمثل احتلالي تحريرها مش كفاية فبشتري لها كوكب كل دقيقة عم بتلفت حولي بستنى صوتها ينادي علي الشعور مش زي ما حكولي ولا حتى هي إلها زي كل دقيقة عم بتلفت حولي بستنى صوتها ينادي علي الشعور مش زي ما حكولي ولا حتى هي لها زي لا ما إلها زي بشتاق للحيطان للجولة للألوان بشتاق للمكان اللي كنا فيه بشتاق للحيطان للجولة للألوان بشتاق للمكان اللي كنا فيه بشتاق للحيطان للجولة للألوان بشتاق للمكان اللي كنا فيه بنزل النجوم من السماء واحطها بين كفوفك واسلم عيوني للعمى لو كنت السواد رح اشوفك كل شي بزواني بيتلاشى وقت ما المصالح تتماشى ايوب بيتعلم من صبري بتفكري انا اللي مكتفي من شاشة قديش لما بحكي بتقاطعيني وكيف لما تخفي بصحيكي بتأسف كأني مش قاصد بتحجج عشان الغياب بيأذيني سامحيني مخنوق من الفراق مجبور ومشتاق بس بترك روحي تحرسك زي الشبح واقفة على هداك الشباك وأنا لحالي هناك كل الأيام اللي مرت ألف مرة روحي انضرت روحي ما بتعرف انضرت بس بعرف إنه روحك بعيني استقرت يا طير سلم أحبابي رسالتي عبابي يا طير وصل جوابي لباب اللي إلهم بصوتي بنادي بنزل النجوم من السماء وأحطها بين كفوفك وأسلم عيوني للعمى لو كنت السواد رح أشوفك كل شي بزواني بيتلاشى وقت ما المصالح تتماشى أيوب بيتعلم من صبري بتفكري أنا اللي مكتفي من شاشة Eccoci di nuovo qua in onda su Radio ZM. Vi ricordo subito che per seguirci potete collegarvi al sito della radio oppure potete ritrovarci su Facebook, la pagina si chiama Radio ZM e anche attraverso il canale Telegram, sempre Radio ZM. Preciso. Allora, parliamo un pochettino, diamo anche qualche dato. E appunto, essendo molto vicini alla giornata dei prigionieri politici palestinesi, io sono andata proprio a guardare sul sito di Adamir, che è un'organizzazione no profit con sede a Ramallah e si occupa proprio dei prigionieri politici palestinesi che si trovano nelle carceri israeliane e offre un supporto gratuito legale per loro. Li segue costantemente per conoscere le loro condizioni di salute e Adamir aggiorna sempre il sito internet www.adamir.org proprio per tenere aggiornato anche a livello internazionale la situazione dei prigionieri palestinesi e lancia appunto anche campagne di solidarietà, proprio come è successo ieri, anche su Instagram sono presenti e sono stati seguiti da molte persone che hanno lanciato il proprio messaggio, bastato filmare il proprio volto recitando alcune parole di supporto proprio per i prigionieri palestinesi. E, guardando il loro sito appunto ci sono già usciti un po' di dati, e ci ricordano che sono ben 5.000 i palestinesi al momento incarcerati nelle prigioni di occupazione israeliana. Il 95% di questi è soggetto a tortura e maltrattamenti anche psicologici, fisici. Sono veramente tanti e disparati i modi in cui nelle carceri israeliane si cerca di piegare l'essere umano calpestando proprio i diritti soprattutto. E, 432 di questi sono in carcere attraverso la detenzione amministrativa, che più tardi andremo a chiedere proprio a Naji di che cosa si tratta nello specifico. Gli ultimi dati importanti, 183 sono i ragazzini al momento in carcere e 26 di questi hanno al di sotto dei 16 anni e 41 sono le donne. Questo è l'ultimo dato aggiornato proprio a ieri. E, tra l'altro è importante da dire che con la situazione del diffondersi del coronavirus la situazione nelle carceri, come abbiamo visto anche qua in Italia, è molto a rischio. Si sta chiedendo appunto da un po' di tempo, dal 20 marzo in particolar modo, è iniziata una vera e propria campagna per chiedere la scarcerazione dei prigionieri palestinesi, proprio perché non sono assolutamente tutelati rispetto alla diffusione del coronavirus e anzi a volte sembra appunto che i carcerieri israeliani o comunque l'esercito israeliano fa di tutto proprio per diffondere maggiormente questo virus. E il 20 marzo in particolar modo è iniziata una delle tante proteste, uno dei modi che i prigionieri hanno per lottare, quello del il rifiuto del cibo, quindi questo è il loro modo per... Sì, uno dei pochissimi in realtà modi che hanno. Sì, loro diretto attraverso le carceri, sì, ed è una cosa anche molto, molto difficile, perché già sei all'interno di un carcere, molto spesso magari isolati, il rifiutare anche il cibo, che è di fatto l'unica forma di sostentamento, spesso anche l'acqua, mette ancora più a rischio le loro condizioni psicologiche e poi man mano anche fisiche. Quindi è una forma di lotta veramente estrema. E insieme ai prigionieri si sono uniti a questa lotta anche... vari civili attraverso manifestazioni proprio nelle varie città. Insomma, questo era per darvi un piccolo quadro della situazione, che poi però andremo ad approfondire meglio appunto con chi la vive o l'ha vissuta quotidianamente sulla propria pelle. Sì, forse l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che, come ci hanno raccontato i volontari di Adamir, dal 1967, quindi dalla fine della guerra dei sei giorni, si calcola che più o meno la metà della popolazione palestinese è passata dalle carceri israeliane. E niente, questo dà un attimo l'idea della marea di gente che viene arrestata quotidianamente con i più disparati motivi o anche senza motivi, come poi vedremo. E niente, direi che è emblematico. Sì, diciamo che non c'è proprio nessuno scrupolo da parte dell'esercito. Anche adesso, con tutta la questione della quarantena, del lockdown, non si fanno assolutamente problema a girare per le città, irrompere nelle case. Sono tanti i bambini, perché di questo si tratta, che vengono ancora adesso arrestati, quindi non solo il problema della privazione dell'infanzia, dell'adolescenza, ma anche la messa a rischio nei confronti di un'epidemia globale che sta investendo il mondo intero. Sono cose che lasciano abbastanza senza fiato e molto perplessi rispetto alla questione dei diritti umani. Certo. Inoltre io volevo aggiungere che la situazione politica è anche molto strana al momento, perché nel giro di un anno, sì, sono state fatte 3 elezioni in Israele che sono andate un po' a vuoto, perché appunto Netanyahu non è riuscito a raggiungere una maggioranza. Adesso sembrava che con Gantz, non so bene come si pronunci, che... come si può dire, è ancora più a destra di Netanyahu, per quanto penso che in Israele non si possa parlare veramente di sinistra, in qualche modo, per come la intendiamo noi. E sembra che i due si volessero mettere d'accordo per raggiungere una maggioranza di governo, ma a quanto pare anche questo tentativo di accordo è fallito. Questa è una notizia proprio di l'altro ieri, mi pare. Sì, pochi recente. Giorni fa, esatto. E quindi ancora brancolano un po' nel buio politico, diciamo. E all'interno di questo si inserisce anche ho letto un articolo di Nena News, che è un sito che si occupa appunto di informazione principalmente sul Medio Oriente. Il direttore di Michele Giorgio parlava proprio anche di questa situazione molto instabile a livello politico, legata anche alla diffusione del coronavirus e soprattutto al fatto che sembra sia possibile al momento una sorta di scambio tra Hamas, che è il governo di Gaza, e Netanyahu, proprio per la questione coronavirus, uno scambio di prigionieri. Sì, che non avviene più dal 2011. ne stanno parlando, è una questione molto delicata e chissà appunto come andrà a finire. Però questo è proprio per dare un piccolo quadro d'insieme, per quanto possibile, della situazione che ce l'ha. Adesso invece andremo a chiamare appunto Miassar. Partiamo da Miassar. Sì, allora una piccola introduzione su di lei. Abbiamo detto che è una donna molto forte, è palestinese, è tutta la vita che lei combatte contro l'occupazione israeliana. Ancora oggi lei si batte per le proprie terre, con anche solo la sua presenza fisica, col proprio corpo più volte ha ostacolato l'occupazione, l'esercito di occupazione israeliana. Raccoglie tantissimi amici e compagni a livello internazionale, perché trasmette proprio una potenza incredibile, e lei in particolar modo si occupa di donne e prigionieri, segue molto da vicino oltre che le prigioniere stesse, anche le mogli di chi è in prigione da parecchi anni. Lei al momento nello specifico si trova a Tunisi, ma non smette comunque di occuparsi della sua terra e del suo popolo. Quindi io adesso mi taccio, andiamo a chiamarla e facciamo parlare lei. Ovviamente ci sarà la traduzione. Ci proviamo, faremo del nostro. Vediamo se va. Sento un po' male. Stai usando per chiamare? Lei era prontissima, con la sua postazione su bandiera Telegram palestinese. Potete anche vedere che si è già posizionata, maglietta, computer, bandiera palestinese. Abbiamo appena inviato la foto su Telegram. Miassar. Beh, deve arrivare fino in Tunisia la chiamata, ci vuole un po' di tempo. Non sta rispondendo, magari, ecco. No, mi ris... no. Hai messo il più 39 davanti, Giulia. non è facile, in un periodo in cui tutti sono attaccati al computer, riuscire a... Mentre forse l'unica, un'altra cosa che si può aggiungere è come mi pare che l'unica logica che si può trovare in tutti gli arresti che vengono fatti da parte di Israele è sempre quella di fiaccare in qualche modo lo spirito di resistenza palestinese. Anche per questo motivo vengono arrestati molti giovani, in qualche modo per appunto fin dall'inizio tarpare le ali a chiunque cerchi di sopravvivere in quella terra. Sì, sì, è proprio una strategia. Si sente il tu tu? Si sente lo squillo, ma non risponde. Magari si è allontanata un attimo dal cellulare. No, nessuna risposta. Proviamo, allora facciamo così, mandiamo un attimino una canzone, provo a chiamarla e poi magari ci riusciamo. Ottimo. Diddy Beats, let's go. فيش في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمة وانا نزع كلندي ودعتني انا نزع للمعبر ودعتني طب احط داي في الجيب في القطار رح يشك في طعني نص ساعة لطعني تفتيش عالواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بصرة حبطني عبط سكيني بعد ما طاخنا معاي تنزف انا اخي ابطنا الصعب وقادم الصبح سيأت الصعب وعدى ميت جيل يتبعني ميت جيل يتبعني وانا واقف خايف انت لا لا لا مش خايف خلو دول مش عنين عم تشعر هدول ناويين يسوع مهيب مالي شعر دخول وعمري بيدي انا مش حزكف ملعونة بكل شرطي كالي واكف ملعونة بكل شرطي كالي واكف وبطبع انا زادك ومش بألف مو ترعب انا اي اي مش حخلي في صعبة وفي مين كدها بعرف مش لعبة وهي هي نفسها كرر وانا اسف مضطر تفكر لحسن ما يصير فيك زيفينا واذا استصعب تستوعب استعمل ايش قالك سيدك واذا سيدك طنت مش تنتكس مش تلتحس مش يلت عندك عبفيدك عن جد عم بحكي اسمعني بفيدك في الشيش في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمي وانا نزع كلندي اود عدني انا نزع على معبر ود عدني اذا بحط داي في الجيب في قطار رح اشوف طعن نص ساعة لطعن تفتيش على الواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بصراحة عبطني ولا اقطع اقنع اقمع اقصف اعنا كل من يتجرأ لو جك ماشي لو جك زحفن لو جك على تخت يتحرك لو جك يتألق لو جك بجاكيته يتأنق لو جك موجات لو شكا وما جاش لو بدا وارتاح لو بدا بالاخر كل جلولنا يا كان اسطورة وقصوها وصوها وصونا عوصولها وهيوتها شوفوها نحفظ ام بنصونها جيبوها بنشرحها بنجرحها بنبوسها وبالاخر كل جلولنا يا كان رح يوسع بس اسمع صار 6 سنين احوص انا مين انا ليش انا لسه انا روق انا كنت وما زلت انا سرت انا فوق بدي اعترف اشي خوري يا دردو يا دردو لي ضربوا بنوها هم وضربوا هدوها ولي طلبوا بما لا يملك وجهه بما لا يرضي لو حطوا بمزق واستنوا تيكي وقولها لكل شماله هذا بيحكي كتير شوفوا شوفوا شوفوا الكحل معاه سيبوا سنتين على الموال بيصير مدير سيبوا سنتين سيبوا سنتين على الموال بيصير مكان سيبوا يا خير وهي تعبير عن ولايلي الوطن شين روح ايران انسجن في الزنزان فيش محامي فيش حدا بركي بعد هي الحبس اهتدى هو مش فرع على طول ولا حدا ولا حدا ولا حدا وانا وانا وانا وانا وانا مش فرع على ضدي ولا حدا ولا حدا ولا حدا فيش شي في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمي وانا نزع قلنديا ودعتني انا نزع على المعبر ودعتني اذا بحط داي في الجيب في قطار رح يشك في طعن نص ساعة لطعن تفتيش على الواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بس راح عبطني اي اي Eccoci, adesso speriamo che la telefonata vada a buon fine. Miassar? Miassar, can you hear me? Yeah, I am hearing you. Oh, hello, oh, Miassar. Now I can hear you. Wow. Welcome. Hope that you are all my friends, all the Italian people are okay and recover from the disease. The occupation disease. Yes, almost all. Not everybody, but yes, it is very difficult here, the situation. Yes, it's very difficult and dangerous. Our hearts with you in Italy, all the people in Italy. Hope that you will be good and well, inshallah. Thank you, Miassar. Shukran kteer. Habibti. Are you fine? Are you good in Tunis? Everything is fine? Yeah, I am good in Tunis, but I want to tell you a message from Palestinian people, from Gaza, from Nablus, from Ramallah, from El Khalil, from all Palestine. All the Palestinian people are with you in Italy, with the Italian people, to recover from this disease, to be good. Our health with you in Italy. Thank you. I translate for the people, okay? Okay. Miassar ci lancia un messaggio da tutto il popolo palestinese, da Gaza, da Nablus, Ramallah, Betlemme, di vicinanza e solidarietà con i loro cuori e il loro pensiero. Sono tutti insieme a noi italiani che stiamo affrontando questa malattia in modo così terribile. Loro ci pensano, ci sostengono da laggiù e ci augurano di riuscire a passare questo momento. Thank you, Miassar. Really, really, thank you. Habibti. So today we call you to speak about the prisoners, because yesterday was the day, official day for the prisoners of the prisoners, yeah, in yeah. Palestine. And also I want to ask you about your work, because you're part of the General Palestinian Women Union, right? Yes. So yeah. What it means, what kind of work you do, and okay, what's about it? Let's say that the International Palestinian Prisoner Day it was declared in the 10th conference of the National Palestinian Conference in Cairo, Cairo in Egypt, and they declared the 17th of April each year the National Palestinian Prisoner Day, and it will be international to all the prisoners to have their freedom. This day we work hard, and all days we work hard for freedom for prisoners, detained whom arrested by the Zionists, and you work hard in Italy, and we respect your work with us. And this day, you know, now we are, before I am speaking about my situation, my work, it is, I prefer to speak about prisoners. This day is very important for us, for the campaign to support, to defend the Palestinian prisoners whom detained at the Zionist prisons. Allora, Mia Sar ci ha detto che appunto la giornata internazionale dei prigionieri palestinesi è stata decisa durante la 10ª conferenza dell'Unione Palestinese al Cairo ed è stata decisa per il 17 aprile, e ogni anno il 17 aprile viene ricordata questa giornata, ed è molto importante appunto in relazione alla situazione di tutti i prigionieri. E loro portano avanti appunto questa campagna anche internazionale, proprio per sensibilizzare tutto il mondo riguardo alla situazione molto difficile sotto occupazione dei prigionieri in Palestina. As you know that we have occupation in Palestine, the Zionist occupation, and now the occupation spread the COVID-19, the COVID-19 disease for prisoners. How? We have at Zionist prisons, we have more than 5,000 prisoners. We have 2.5 children. We have now 40 female prisoners at Damone prison. The Zionist spread, we are in a disaster. We are afraid of the prisoners because the Zionists, the Israeli with two quotation soldiers at the investigation center, they took the disease and it spread for the prisoners as what happened with some prisoners, as what happened with Sarsour, whom released from prison. So we are in danger. We are afraid of our prisoners inside the prison. So we are now at two occupation, the Zionist occupation and the dangerous of the Zionist occupation, act from continue or taking the disease from Israeli soldier to our sons, to our women, to the children at prison. So we need all the world to hear that we are in danger. Allora, ci ricorda anche lei che al momento nelle prigioni israeliane sono detenuti più di 5.000 prigionieri palestinesi, molti sono bambini e ci sono anche più di 40 donne. E proprio a causa del coronavirus la situazione è molto più grave. Loro hanno paura per i loro familiari, i loro cari che sono appunto detenuti nelle prigioni, che ci siano dei casi di contagi legati appunto al coronavirus, proprio perché i soldati, i carcerieri, l'esercito in generale non si fa assolutamente carico della protezione sanitaria in qualche modo dei prigionieri palestinesi. Lei ha detto proprio che ha paura del fatto che i soldati israeliani possano in qualche modo trasmettere la malattia ai detenuti palestinesi. Ok, Mia Sar. So what happened inside the prisons? the director of a Zionist prisons inside the prisons. You know that we are living in not good situation inside the prisons. It is dirty, and so we need inside the prisons. We need jafal. We need cleaning material. We need a lot of facilities to continue our living inside the prisons. At the beginning of this disease, the Zionists immediately take off all the cleaning material from the barters, the section inside the prison. So they want us to be killed by the disease. And what happened outside Palestine, outside the prisons? We have the statement from the prisoners. We trust them from their statements first. We have to continue our fighting with compassion on all of the world to rescue, to save our prisoners. So first, we trust the statement from the prisoners inside the prisons. It is the reality story which we have from them, not the Zionist story. It is very important. Second, as General Palestinian Women Union, we didn't stop. We wrote a statement, very important statement. I will send it for you. And this statement, we sent it for the World Women Democratic Union and in Lebanon, the place of them, they are in Lebanon. The World Women Democratic Union wrote a letter to Vato Mansouda at the criminal court at the United Nations to save the female prisoners. We work immediately to rescue the female prisoners. This is, and we are working at the convention with the European World Committee to defend the Palestinian prisoners. It is very important, and now I am working as one of the popular of Palestinian to have the sound of prisoners with you in Italy, or even you are in rest, but we respect that you are with us to continue our living in Palestine and to save the prisoners. Thank you. Okay, Mia Sarra ci ha ricordato appunto che la situazione è peggiorata nel momento del diffondersi del coronavirus. Già era difficile all'interno delle prigioni proprio per i maltrattamenti e le torture che i prigionieri devono subire, ma la condizione è terribilmente peggiorata proprio perché lo scopo delle forze di occupazione sioniste è quello di diffondere fra i palestinesi questa malattia, e quindi hanno sottratto tutte quante le cose per la propria cura, igiene personale, ma anche per pulire gli spazi, di modo tale che il virus potesse diffondersi più facilmente proprio fra i prigionieri palestinesi. E Mia Sarra, yes. Ci ricorda quanto è importante al momento parlare di questa situazione nello specifico a livello internazionale, e infatti lei, facendo parte del General Palestinian Women Union, hanno scritto questo testo condiviso anche con il World Women Democratic Union in Libano, e stanno collaborando anche con altri stati del mondo arabo proprio per far arrivare alle Nazioni Unite, al mondo intero, all'opinione pubblica internazionale, il problema dei prigionieri politici detenuti nelle carceri israeliane, aggravato a maggior ragione dal coronavirus. Loro parlano dei prigionieri, ma si occupano anche di tutte le donne che al momento si trovano nelle carceri israeliane. Yes, yes, sir. Yeah, Julia. Yes, ecco, just one thing. Lei ci chiede anche di poter, lei conosce la vicinanza del popolo italiano a quello palestinese, e chiede appunto che tutti questi documenti, queste richieste vengano prese in carico anche da noi italiani, ovviamente. And this campaign is already started, or you are still writing this document? You are speaking with me, Julia? Yes, yes, Mr. Again, please. No, I was asking if this document is ready. You already sent this document to... The document from the General Palestinian Women Union, but I can send it for you. And the letter from the World Democratic Women, I will send for you with the letter with which they sent for the criminal court to Fatou Mansouda at the criminal court. So I will send it for you. It's okay for me. Thank you. I have the documentary, yes, of course. And I put it at my Facebook and at the general face. But I will send it for you, okay? Any Palestinian or Arabic can translate it to Italy, it's okay. Yes, it's possible. Il documento è già pronto ed è pronto anche per essere condiviso proprio a livello internazionale, proprio per sostenere questa campagna. And, Mr. I am Ricardo. I have just a question about this document, this letter. Do you have any answer to this letter from the United States? What? If you receive any answer to this letter? Receive answer from the criminal court from Fatou Mansouda? No, we didn't receive until now. But it is to work to have any action against the Israeli occupation. So we didn't stop watching the killing of prisoners. But it is a sound of or a kind of fighting. We sent the letter to the criminal court. But you know that United Nations and the criminal court, you have to do and to fight there. Yeah. Sì, ci dice che appunto ancora lo stanno condividendo, ma non hanno ancora ricevuto nessuna risposta in merito a questo documento, a queste richieste, e l'unica cosa che è possibile fare è appunto continuare a lottare, a chiedere, ma ci vorrà probabilmente del tempo prima che si abbiano delle risposte proprio dalla Corte Suprema, se ho capito bene. Sì. Sì, ha detto che come sempre avere risposte sia dalle Nazioni Unite, ha citato anche loro, che appunto dalla Corte Suprema è un percorso molto lungo e bisogna insistere in continuazione, quindi non ha ricevuto risposte ovviamente ancora. So we can share this document, of course, Miassar, also here in Italy. Yeah, I will send it for you. We ask them to have doctors, international doctors. We have, we ask them a lot of things, but you know that it is another battle at the United Nations to fight. We are fighting in all sides in the world. Against occupation, against corona, against what happened in the United Nations. But what we are doing, not to stop, not to give up. We are with the prisoners, not to let them feel that they are alone. They are lonely. No, we are with them. We have to be with them in all the world, not just Palestinian. Sì, che è una doppia battaglia, quella sia dal punto di vista contro l'occupazione, ma anche contro la malattia, e loro stanno cercando appunto di portare avanti questa doppia battaglia anche verso le Nazioni Unite, perché li possano ascoltare, possano assumersi la responsabilità delle richieste che fanno, e soprattutto fanno questo proprio per far sentire la loro presenza, la loro vicinanza ai prigionieri, affinché non si sentano soli e abbandonati all'interno delle carceri, già in una situazione difficile, peggiorata anche dalla malattia. Loro fanno tutto questo proprio per non abbandonarli, per farli sentire insieme a loro. And as you know, Julia, we discuss a lot of time about female prisoners, especially because I am working as volunteer. I am working as volunteer, not with salary. You know that, Julia, as yes. you came to my house and you know my work. Following the details of the female prisoners now, at the Damun prison, at the Damun Zionist prison, we have 40 female prisoners. We have two from Gaza. Why I'm speaking about two from Gaza? Because whom from Gaza cannot never to hear the sound of their sons, of their families, and to be visited. I guess you know that the Zionists isolated it completely. And with Trump declare and what happened with the world treatment now, they want to isolate Gaza completely. So we are afraid of the two ladies from Gaza. They are mothers, and they cannot see or even hear the voice of their children. It is hard for women at a prison, especially in Gaza, from Gaza. Even all of the women now at the prison, the 40 prisoners, they are all of them cannot, there is no visiting to prisons because of COVID now or because of Corona. But we have campaign in all the world, and all the world sign on this campaign. It is another fight that with the lawyers and with the committees who work with the prisoners in Palestine, to let the female prisoners and the children to have one time per month to speak by telephone to their families to have the rest that they are still living. It is very important, and the prisoners succeed in their battle, and we have succeed in this to hear the voice, the sounds of the female prisoners. It is, until now, it is good. Sì, Mia Sar ci dice che praticamente il suo lavoro all'interno del General Palestinian Women Union è assolutamente volontario e loro seguono da vicino tutte le donne che al momento si trovano in prigione, sono più di 40, e ci tiene a specificare che due di queste in particolar modo arrivano da Gaza. Lo specifica perché? Perché Gaza rimane separata dal resto della Palestina, e per queste due donne al momento che si trovano in prigione è assolutamente impossibile essere visitate, non possono nemmeno parlare al telefono con le proprie famiglie, con i propri figli, gli è stato tolto qualsiasi parvenza di diritto. E per loro ovviamente la situazione, anche a causa della diffusione, perché il governo israeliano ora usa come scusa, tra virgolette, il fatto che non ci deve essere trasmissione del virus, quindi ha bloccato tutte le visite, ma per queste donne di Gaza era già impossibile poter essere visitate. E quindi ci tiene a sottolineare l'importanza di portare avanti questa campagna proprio per non far sentire sole e abbandonate queste donne che vivono una situazione estremamente difficile. E nel mentre racconta di come questa situazione, che appunto prima era vissuta principalmente dai prigionieri e le prigioniere che venivano da Gaza, adesso è stata estesa a tutte le prigioniere, e in particolare a causa con la scusa, diciamo, del coronavirus. E ha detto che stanno cercando di ottenere insieme a diversi avvocati il permesso affinché queste prigioniere possano perlomeno sentire la voce dei propri figli tramite telefono, quindi, e ha detto proprio che in qualche modo possano comunicare che sono ancora vive. Yeah. And we have now at the prison 15 mothers. At the prison, and we have two under the administrative detention. They were four before and two released. Now we have two at administrative detention. And you know our comrade Khalida Jarrar, member of parliament, Palestinian parliament, she is under arrest now, and she was arrested before 2 years for administrative detention, 1 year and another year. after she released just months, the occupation again arrested her, and she now at prison waiting the decision of the court. Why I mention Khalida Jarrar, because she is member of Legislative Council of Parliament. So the Zionists arrested even members of Parliament, mothers, kids, ladies, and they are fascist with us in the way of arrested women and men. They deal with us in the same way. Sì, ci tiene anche a precisare che ci sono al momento più di 400 prigionieri in detenzione amministrativa. Una di queste, in particolar modo, di cui lei vuole parlare, è Khalida Jarrar. È una donna che negli ultimi anni è entrata e uscita a causa della detenzione amministrativa parecchie volte dalle prigioni, appunto. E la cosa molto particolare è che Khalida Jarrar fa parte del Parlamento, quindi le forze di occupazione israeliana non si fanno nessun scrupolo ad imprigionare anche membri del Parlamento, persone che comunque rivestono delle cariche politiche. E detenzione amministrativa significa che non c'è un vero percorso giudiziario in atto, non ci sono delle prove con cui arrestare le persone. Questo è quello che hanno fatto a Khalida Jarrar. Era stata rilasciata l'anno scorso proprio di questo periodo e in autunno è stata un'altra volta arrestata, sempre usando il mezzo della detenzione amministrativa. And we have ladies or girls, still girls, not married. They were arrested and sentenced for a long time, like Shatila, Ayad, and Shuruq. They were sentenced for 16 years to spend all their life at the prisons. Marah Bakir, she was arrested. And Amal Takatka, a lot of names. When they were arrested, they were under the age of 17, and they were sentenced for 15 years, 14 years, 99 years. It is hard for them, and they are going on at prison. It is hard for them. And we have seven injured. They were shooted by bullets from Zionists at the checkpoint or at the demonstration. And they need treatment now with the COVID-19. They have to be care because of you know, and her photo, you can find her photo, Israa Jabiz, all her face, her hands, her body was burned by gas. They explosion the gas at her car, and she was burned, and she needs an operation. The Zionists didn't allow doctors to enter the prison and to make operation for her. She needs just one finger to move. And they didn't do the operation for her. So the other ladies at the prison, female prisons, take care for her. It is hard for ladies and for girls at the prison. Allora, ci parla anche dei bambini, dei ragazzi sotto, ancora molto giovani, la maggior parte, molti di questi sono sotto l'età dei 16-17 anni, quindi sono proprio dei veri bambini, hanno 9, 8, 10 anni, e sono circa 183 al momento i bambini all'interno delle prigioni di occupazione israeliana, e ci parla in particolar modo di alcuni esempi. Alcuni di loro sono addirittura stati feriti con proiettili col gas e hanno quindi bisogno di alcune cure mediche che però non vengono somministrate nel modo giusto, con tempestività, lasciandoli a volte anche con delle disabilità. E la comunicazione andava e veniva. Parlato in particolar modo di una ragazza che aveva... Che, se non ho sentito male, è stata arrestata intorno ai 17 anni e ha avuto una pena di 15 anni, può essere? Ha detto una cosa del genere? Yes, yes, sir. And this is about, in general, about female prisoners. And if you want any question, I will answer. But I want to tell you about, in general, prisoners, Palestinian prisoners. You know that now French government, they arrested until now George Abdullah and Carlos for 35 years, and until now at French prisons. And in Palestine, the Zionists still arrested more than 22 prisoners. They are ancient prisoners, and they didn't allow them to be in any agreement from Jerusalem and from our area 1948, like such as Karim Yunus, Maher Yunus, Walid Daqa, and others. They spent now 35 years at prisons. Sì, ci parla della condizione di alcuni George Abdullah, right? Sa? Is this the name? Yes. Yes, sir. Uno degli esponenti. George Abdullah, Lebanese. He was working with the Palestinian Miassar? Revolution. We didn't hear because the connection maybe. Can you repeat, please? Just about George Abdullah. He is Lebanese. Mm-hmm. And he is now at the French prison. He was working with Palestinian Revolution in Lebanon. And Carlos, now they are under arrest at the French prisons. Sì, parlava appunto di Abdallah, che appunto ha partecipato in modo attivo alla lotta palestinese e che al momento si trova nelle prigioni francesi e il governo palestinese non riesce, governo, l'autorità palestinese non riesce a trovare un accordo per permettere il rilascio suo, ma anche di altri militanti politici palestinesi al momento che si trovano fuori dalla Palestina in prigione, non riescono a trovare degli accordi per permettere appunto il loro rilascio. Yes, mister. Yeah. Mm-hmm. And yes, yes, about George Abdullah, this is, and we have under arrest like Karim Yunus and Maher Yunus. They spend the year of 36 years, not 35 years at prison, and we need for them freedom, to be free. It is enough for them to be more than 36 years at prisons. Che al momento è da 35-36 anni che si trova in prigione e loro continuano a chiedere strenuamente la sua liberazione, perché sono veramente troppi anni, è abbastanza, e quindi chiedono il suo rilascio. Just that we appreciate the international solidarity with us, so we will not never to forget our comrade, our friend, Italian Vittorio Arghino, who was killed by tourists in Gaza. We are sorry about what happened for Vittorio, who was in Gaza working with Palestinian, Italian. We say God bless his soul. And Rachel Khoury, whom killed by bulldozer in Gaza. She was from America, volunteer working. So the Zionists killed even whom are support us. So we are respect your solidarity in Italy and all the world whom support our struggle. E tutti i palestinesi non dimenticano assolutamente il supporto internazionale, la solidarietà internazionale, e Miassar ci teneva a ringraziare e a ricordare Vittorio Arrigoni, morto a Gaza ucciso, e anche Rachel Corrie, erano entrambi due volontari internazionali che si votati alla causa palestinese a sostenere i propri fratelli, amici, compagni palestinesi. E Rachel Corrie è stata uccisa dalle forze di occupazione israeliana e appunto Miassar ricordava, ci teneva a ricordare anche tutto il sostegno che arriva dagli altri dei compagni sparsi per il mondo, e in particolar modo di Vittorio e Rachel, che hanno perso la vita lottando. And we have hope now that prisoners will be free, because you, as you heard, I don't know if you heard or not, there is some negotiation between the resistance in Gaza and the Zionists by Egyptian, by Germany, by whom we don't know, but there is something happening under the table that it there will be a treatment for releasing the prisoners, the Palestinian prisoners whom are arrested after they were released with the Israeli soldier Shalit, whom again they were arrested, and the older, the illness, the kids, the ladies first, then they continue the treatment. We hope that it will be successful, and my belief that so we have resistance in Gaza and Israeli soldiers with them, so the prisoners, the Palestinian prisoners will be free, inshallah. E come avevo anticipato prima, appunto lei ci ricorda che al momento c'è una sorta di trattativa in atto tra il governo di Gaza e quello israeliano per poter permettere il rilascio di tutti quei prigionieri che sono stati arrestati per la seconda volta dopo il 2011, dopo essere stati rilasciati, e in particolar modo soprattutto di donne e bambini, proprio a causa del coronavirus. E sta avvenendo questa trattativa anche grazie, diciamo, all'intermediario egiziano. E loro sperano che appunto questa cosa possa andare a buon fine e possa permettere il rilascio, quindi anche a livello di salute, di molti prigionieri palestinesi. What happened now in Palestine for the prisoners whom released? The Zionists didn't make tests for them, and they didn't do anything. So when the prisoners, female prisoners, like here, other men, immediately the Palestinian relief treatment, they took the prisoners from the checkpoints, and thanks the prisoners whom released, they went, instead of going to their families, to their houses, they went to isolate themselves for 14 days, and after they are going to their houses without festival, without anything, it is good for their health and for their families and the community. It is very good, and thanks for the prisoners whom say that the life of the community, the life of Palestinian, the life of our families is more important of our happiness. We are happy that they are free, but we are more happier that they are agreed to be under the isolated for 14 days. Then they are going to their houses. It is good. Ci riporta anche questa procedura, perché appunto nel frattempo i prigionieri che vengono rilasciati in questo periodo devono affrontare un'ulteriore difficoltà a causa del coronavirus. Di solito è una grande festa il rilascio di un prigioniero per tutta la comunità, non solo le famiglie. In questo momento è fondamentale che i prigionieri rilasciati non si rechino subito, immediatamente, dalle proprie famiglie nelle proprie case, perché devono preservare la propria salute e quella delle famiglie, quindi devono fare almeno 14 giorni in isolamento proprio per evitare che il coronavirus si diffonda ulteriormente. Quindi loro sono contenti che i prigionieri vengano rilasciati, ma al momento la loro priorità è la comunità, la popolazione palestinese nella sua interezza, e quindi ogni piccolo gesto, anche questo un sacrificio ulteriore chiesto ai prigionieri rilasciati, è quello dell'isolamento per 14 giorni, cosa non molto facile ovviamente. Certo, ho detto proprio che la vita della comunità in questo momento è più importante della felicità di riabbracciare i propri cari dopo tanto tempo, diciamo. Yes, mia sir. If any question you want, it's okay for me. We have one, just to tell you that we have one prisoner whom has COVID-19. His name is Mohammed Sarsour, and immediately he was in isolated. Now he is good and recovered. Thanks God that he is recovered. And this is the occupation. Didn't take care of a prisoner, didn't give them treatment. They want us to be killed by diseases, by killing us in any way, in any way. Che ha parlato di questo Ahmad, che è stato rilasciato ed era malato e ha appunto affrontato l'isolamento, e adesso sta guarendo, la sua condizione sta migliorando, e anche grazie a questo suo sacrificio di autoisolamento ha messo in salvo la sua comunità, e insiste sul concetto di per il governo israeliano e l'esercito israeliano è una strategia militare quella di far sì che si diffonda il virus tra i palestinesi, proprio per poterli eliminare, non solo attraverso l'occupazione, ma usare anche questa malattia proprio per colpire la popolazione palestinese. If any question, I am ready to answer, and hope for Italian people to be good, to recover and to return as Italia, Italy, beautiful Italy. I love Italian people, I love Italy, and hope to come back to Italy soon, inshallah. I hope the same, mia Sara. I hope to see you soon, very soon in Italy with us. Inshallah. Inshallah, inshallah. Thank you for your speech. What you said today, it's very important. And you know, in Italy, every time is very difficult to know the real situation in Palestine, yes. To know what is happening there, because the media try to... To hide, yeah. Yes. Yeah. So yeah. For us, it's very important to hear you, because we need to know the situation, the real situation in Palestine. The reality story, not the Zionist story. Thank you for supporting us. Really, thank you for giving me this space by radio to all the world, to our friends. Be good, hope that you will be good, and to see you in Palestine again, Julia, and all our friends. Thank you. Thank you, Miesar. Thank you to stay here with us in the radio, really. And I hope to come back very soon in your house. Inshallah. With you. Your house in Tunis and in Palestine. It is open for you. Shukran. And for our comrades. Habibti. Shukran. Habibti, mia sar. Shukran. Shukran. Take care. You okay, too. Bye. Abigag. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Ha chiuso ringraziandoci per questa possibilità che le abbiamo dato di portare la sua parola, la sua esperienza, le sue conoscenze in radio, perché come abbiamo ricordato purtroppo queste notizie riguardo alla detenzione palestinese, e non solo riguardo alla detenzione israeliana, scusate, dei prigionieri palestinesi, in Italia arrivano a fatica o non arrivano proprio, ci sono pochi mezzi di informazione che ne parlano, e ci ha ringraziato proprio perché oggi abbiamo in qualche modo aiutato a diffondere queste notizie. Andiamo con una facciamo un piccolo stacco canzone, dopo questa ci riprendiamo. Testimonianza importante e poi torniamo. Tornati. Eccoci qua. È stata una testimonianza, direi, molto molto forte. Sì. E poi in realtà mi assarre quasi sempre da contenere, perché avrebbe tantissime cose da dirci. E mi dispiace che non riusciamo magari a tradurre in contemporanea tutto, perché abbiamo dei problemi qui in radio, non si sente benissimo, c'è un po' di riverbero, quindi qualche parola sicuramente ce la siamo persa. Però, insomma, direi che l'idea, la data della situazione. Poi comunque nel podcast potete riascoltarla anche più con calma riuscire a carpire meglio alcune parole qui per velocità e anche per questione di suoni, non sempre tutto così facile da capire e tradurre immediatamente. Bene. Bene. Speriamo che le parole di Miassar riecheggino per un po' nei pensieri, nelle menti delle persone. E ora andiamo a chiamare il nostro caro Naji. Oggi posso fare una piccola... Ho fatto la mia doppietta familiare. Sono la mia mamma e il mio papà palestinesi. Insomma, sono proprio a casa. Anche se non si conoscono loro due. È un po' emozionata, Giulia, possiamo dirlo. Io sono dirlo. Sempre molto emozionata quando parlo con Miassar e Naji in particolar modo, quindi... Naji, stiamo arrivando. Mi colpisce di Miassar sempre il tono con cui parla. E sembra una bambina. Cioè, sempre super... attiva, c'è cioè sempre un tono di voce sostenuto. Naji? E... Oh. Hi, Naji. Ehi, Naji, marhaba. Ehi. Where are you sleeping, Naji? You have the voice like you just wake up. Yes, I hear you. Hi, how are you? We are fine. Marhaba, how are you? Fine, fine. A little bit tired for the... No, I'm... No, I'm working. I was sure about it. And yeah, you wake up joking. Very early in the morning. I know. I was joking, Naji. Naji, do you hear us? Okay. Ah, probabilmente c'è un po' di ritardo con la linea, comunque, ci sente. Niente, io ho chiesto se stavo dormendo, ma ha detto, ma che dormire, qua si lavora. There are some people talking, now for that I don't want to bother. I mean, my voice is coming later, I don't know why. Yes, we don't know, but this is the thing, because we listen to you later, and you listen to us later, so... Maybe you have the radio on, you were listening us. Okay. Maybe for this reason. Okay, I stopped. Okay. I stopped. Okay. Okay, for this reason. Okay. Sorry, I am very bad with the technology, you know. don't worry, me too. Okay. Now, okay. Can so, I start? Yes. Yeah. Of course. Yeah, first of all, I would like to thank you, Julia, and all the teamwork with you. You make amazing work in the Prisoner's Day, and usually you've done many things also during many subjects and all, and I appreciate that. I would like also to thank Miassar for her presentation. She done very well. Actually, she explained a lot of things. I hope that we can today cover all our subjects about the prisoners and the situation in Palestine. Okay, Naji, I translate. I'm Ricardo, I don't know if you remember. Naji ha iniziato ringraziandoci per quello che stiamo facendo, per il fatto lui era collegato alla radio, per quello c'era un problema di ritardo, e quindi ha ascoltato Miassar, ha ascoltato il nostro discorso, ci ha ringraziato per quanto abbiamo fatto, per questa informazione, come abbiamo detto prima, e sì, che Miassar ha già ampiamente spiegato la situazione, ma che anche lui adesso entrerà abbastanza nello specifico. Yes, Naji. For me, I would like to focus about maybe two things mainly. I'm talking about the general the occupation, the arrestation, and how the Israelis they focus for the prisoners and all. And the second point about administrative detention, and we can include the arrestation during the quarantine as well. And I would like to not to explain many things about prisoners because it's a huge subject. I would like to focus on these subjects as well. Allora, Nagy dice che vuole approfondire due aspetti in particolare. Il primo è come agiscono le forze di occupazione israeliana, come avvengono appunto gli arresti e poi le condizioni dei prigionieri, e poi vorrebbe focalizzare l'attenzione su appunto la detenzione amministrativa, che cosa significa, che cos'è e come viene usata. Yes, it's not possible to talk about the occupation and the apartheid state without all the subjects as you know, arrest people, killing people, demolishing houses. Now, for the Israelis, it's normal, and they keep doing that, like every day in the West Bank, in Jerusalem. Even in 48, there is a lot of pressure to the people. They're asking for their rights and struggling. And now we are talking about the resistance. But in the same time, we are talking about resilience, actually. We try to be resiliences, and we try to be in charge, involved in resistance every day, because it's our duty first. The second, we have the rights even to do that. Allora, ha detto che appunto inizierà a parlare dall'occupazione, per quanto riguarda l'occupazione, e ha spiegato che è difficile in realtà distinguere i diversi aspetti dell'occupazione. Sicuramente quello dell'amministrazione, della detenzione amministrativa è uno di questi. Ha parlato di come ogni giorno continuano anche adesso a esserci demolizioni di case, e come anche all'interno del 48, che sarebbe quello che comunemente viene chiamato Stato di Israele, sono presenti delle pressioni da parte delle persone per avere riconosciuto in maniera maggiore i propri diritti. E poi ha detto che c'è una distinzione da fare, una distinzione, insomma, c'è da considerare sia la resistenza che viene fatta al popolo palestinese, sia la capacità di resilienza, quindi di riprendersi dopo un disastro, tendenzialmente questa è la definizione, da parte sempre della popolazione palestinese. Quindi da una parte quanto i palestinesi siano resistenti alla situazione attuale, e dall'altra quindi quanto siano resilienti, quanto siano capaci di continuare a vivere nonostante tutto, a riprendersi la propria vita. There is a Soher, Nagy. Soher, she's dealing with some flower planting. Oh. Yes. Hi, merhaba, Soher. Yeah, she say hi to you. She's she's preparing for the flower. Okay. Oh. Okay. Okay. Continue. Yes, now since the beginning of quarantine, I mean the beginning of first week of March, the Israelis, they keep coming, attacking the areas, and they arrested many people also during the coronavirus time, while the Palestinian Authority, as we mentioned also many times, they try to, they blocked the streets all in front of the checkpoint on our side. But the Israelis, they don't respect this kind of agreement, and they don't. They open the borders and the checkpoint when they decide to attack the areas. And since they coming, they start with as before even quarantine. come with their jibs and shilling by tear gas and sound bombs and everything, and they attacked the houses coming with the dogs with all the full guns, weapons, whatever, and damaged the furniture. And they succeed to arrest some person because during the quarantine, people usually staying at home and respect the safety of themselves and the others. Allora, Najed ha raccontato di come l'occupazione israeliana, nonostante la pandemia globale, continua la sua avanzata, e nonostante il blocco e la quarantena e anche il fatto che l'autorità palestinese ha bloccato la circolazione in alcune strade, l'esercito israeliano continua a infrangere queste norme, recandosi nelle strade anche bloccate, soprattutto continuando a fare irruzione nelle case che sarebbero il luogo sicuro, proprio perché sanno che le persone stanno a casa proprio per rispettare la quarantena, quindi è anche più facile trovare persone e arrestarle. Quindi continuano con le incursioni sia nei campi ma anche all'interno delle case con armi, usano anche animali, i cani. Lanciano tear gas e le bombe sonore, e quindi di fatto la quarantena non viene minimamente rispettata, quello che sono le norme minime di igieniche e rispetto della salute degli altri vengono completamente calpestate. Now in this situation with the Palestinian prisoners, they never change even during the quarantine and the coronavirus, which is after they arrested some person, one of these person affected by the coronavirus during the investigation. They got this virus from the, I don't know from where, from the soldiers or from the investigator or from the doctor, Israeli doctor. But in the same time, they don't have any change inside the investigation time, inside the jail, inside the cell. There is no materials even to cover and to protect them. They have a very hard condition also in many people in the same place in the cell. We are talking about a small place as very crowded with a lot of prisoners in the same time from everywhere. Now for that it's not possible for the prisoners to take care of themselves while they are forced to stay with the many prisoners in very crowded place. Ok, allora, ha raccontato come la situazione dei prigionieri palestinesi da certi punti di vista non sia cambiato e da altri invece è cambiato, in quanto a quanto pare ci sono dei casi di prigionieri che si è scoperto sono affetti dal virus e non si è capito se questo virus l'hanno preso dai soldati israeliani, dai medici israeliani o dagli investigatori che in qualche modo conducono i colloqui con i prigionieri. E per quanto riguarda invece la situazione all'interno delle carceri, appunto, la situazione è peggiorata, come ci diceva già anche prima Miassar, in quanto non ci sono protezioni, non ci sono materiali igienici, materiali, non sono banalmente disinfettanti e quant'altro per poter garantire una condizione sanitaria migliore, e soprattutto le prigioni, così come in Italia, poi lì si può immaginare ancora peggio, sono estremamente affollate e non c'è modo per prendersi cura in qualche modo di questa situazione e evitare la diffusione di un eventuale contagio. Yeah, and this information I keep calling and receive a lot of news from the Ofar jail, for example, and I understood that in Ofar jail, for example, there is some activist, as my nephew will talk later about him, Ghassan. Now, the situation inside the jail, it's too complicated as well, and they're trying to deal with the quarantine and the coronavirus as well with the other prisoners, and they don't control that, because when the Israelis, they decided to take some activists from the section or from the jail to transfer them to the other jail. Now, this is a normal day, and always they do that, exchanging the prisoners from their own places, which is don't respect even any rules for protection from the prisoners, trying not to allow to any new prisoners to come to them for the quarantine virus. But the Israelis, they don't respect that. And always they moving the prisoners from the section to the other section with the others. They're mixing without even to give them any kind of materials, safety materials even, or something to clean or whatever. Now, they live in very hard condition. And when the people loudly voices trying to ask and to follow their program, not to allow to anyone to enter the section, the Israelis, they come with a lot of police and open the sections, and they throw even pushing more prisoners and exchanging the prisoner from section to section, which means these prisoners, they are very disappointed because they can't even control themselves. They can't save themselves by this law because the Israelis don't respect it. The second point, it's with the Palestinian Authority. They do as agreement, I don't know, after negotiation with Israelis, that leads to respect the coronavirus and the quarantine. But the Israelis, they never accept any kind of agreement. Now they keep doing the same and put the prisoners in dangerous situation right now. Ok, allora, ha raccontato come ha continuato a raccontare la situazione all'interno delle prigioni, ha detto che una delle difficoltà maggiori per i prigionieri è quella di in qualche modo curare se stessi, badare in autonomia alla propria sicurezza, sempre dal punto di vista del contagio, perché quello che sta attualmente facendo Israele è un continuo spostamento di prigionieri da una sezione all'altra delle prigioni, da una prigione all'altra, senza chiaramente mai preoccuparsi di pulire, disinfettare le varie postazioni. E quindi quello che succede è che i prigionieri non sanno se il nuovo prigioniero che sta arrivando è infetto, se non lo è, se quello che se n'è appena andato potrà andare a infettare un'altra zona, un altro reparto, un'altra prigione addirittura, proprio perché c'è questo continuo movimento dei prigionieri. E quindi in questo modo Israele appunto non permette nemmeno un auto controllo da parte dei prigionieri stessi. Ha detto inoltre che l'autorità palestinese ha tentato di fare un accordo con Israele affinché i soldati israeliani rispettassero in qualche modo la quarantena, ma questo non sta accadendo perché, come diceva prima, appunto i soldati israeliani continuano con le incursioni all'interno dei campi profughi, e nonostante le persone siano tutte in casa, quindi non si capisce neanche perché avvengano queste incursioni. Now, with the situation, with the very hard situation, always I trust the Palestinian prisoners all the time. They are very creative, and they're trying to find the solution and a way by themselves. And for sure, they will succeed somehow, you know, by themselves. But it's need really, big struggle and even hard struggle to succeed, to make their own planning and to. To approve what they are doing. But in the same time, I know how much it's difficult. I just thinking about them too much, because I know this kind of situation, how much it's hard for the Palestinian prisoners in general, and how much it's harder for the leaders or for the active comrades inside the jail. They're trying to do a lot of things, and I hope they will succeed somehow to create a new atmosphere for the prisoners. Ok, ha detto che appunto i prigionieri palestinesi, lui ha detto I trust Palestinian prisoner, quindi ha fiducia nei prigionieri palestinesi, in quanto cercano sempre in qualche modo di aiutarsi a vicenda e di tutelarsi uno con l'altro. E anche se questo chiaramente in questo momento è ancora più difficile del solito, e che anche loro stanno cercando come sempre dei modi anche creativi, lui ha definito, per fronteggiare questa situazione, e lui ha completa fiducia che in qualche modo riusciranno a, a passare questa situazione facendo sorreggendosi l'un l'altro. Now, I can say just only to approve how the people they will be creative in hard condition inside the jail. One time we were in the Nakab Desert, which is named in Hebrew Ketziot, which is very hard jail in desert in near Sinai. Now, with this jail, we were like facing a little problem. And very bad conditions, actually, with 12,000 people were living in the same jail, political prisoner, I mean, and with different section living tents, with less water, with very hot weather as well, and with no food, at least it was very bad food and all, and people they trying to resist and to do a lot of things to plan how they can change even the weather by that, and some of Palestinian creative prisoners they decided to change the reality in their mind. Not in the ground, but if you start believe, as you live in very good condition and good weather, you have to leave it in your mind, even if it's not real in the ground, but they've done something. I will explain you the story. Allora, ci parla della situazione specifica di questa prigione che si trova vicino al Sinai. Nakka Jail, this is the name Naji. Nakab Jail, dove la situazione è veramente, veramente tragica. Già in situazioni tra virgolette normali, sono detenute all'interno più di 10.000 persone. E racconta come ci sia poca acqua perché appunto le persone sono troppe e non viene garantita a tutti loro una sufficienza, sufficienti risorse idriche, il cibo sia molto scarso, e l'ultima parte diceva come i prigionieri cercano in qualche modo di uscire da questa situazione fisica attraverso la mente, sì, anche se la situazione intorno a te, la questione fisica, quindi la terra intorno a te non lo permette, cercare di liberarti attraverso la mente. Now in these sections which is isolated from each other and it's forbidden even to pass anything from the section to the other section in that moment, and one Palestinian comrades from the Isha camp, his name is Salah Abed Rabbu. He wrote a song, actually, to against the weather, to against the desert, to against the scorpions. They were moving everywhere, to against the snake, to against the, you know, all the things around, and included the Israeli police. E in questa prigione c'era anche una... un uomo, un detenuto che arrivava da Deisha, il suo nome è Salah, e ha scritto una canzone proprio per trasportare questo pensiero che diceva prima Naji, di combattere le brutte circostanze che è intorno a te, le circostanze fisiche. Descrive l'occupazione israeliana come una sorta di deserto, un serpente che ti attacca, come combattere queste situazioni avverse. Now after he wrote this song, now we wrote it hundreds time, you know, in order to share with the other sections in paper, and we sticked the paper with a little stone, small stone, and one strong man with very strong hand, he throw this stone with the letter to the other section, and the other section, they give it to the other section, and it's written even down under the song, the appointment that we going after 1 week in this time, exact time, we have to start with loud voice all the prisoners. I'm talking about 12,000 Palestinian political prisoners in that time, to loud voice to sing this song all together. E praticamente questa canzone è stata scritta in fogliettini piccolissimi, addirittura già direttamente su delle pietre, che sono state poi lanciate da sezione a sezione all'interno della prigione, in modo tale da raggiungere tutti quanti i detenuti. E c'era scritto anche un appuntamento per una settimana dopo, a un orario ben specifico, in cui tutti i detenuti si sarebbero messi a cantare questa canzone tutti insieme. Now, for that I trust them so much, and when all the prisoners start singing in the same time, loud voicely, with emotionally, with this really crazy sentence written in this song, now everybody start loudly and they give more energy for the weak prisoners, for everybody, or for the sick people. Everybody start loudly shouting and singing this song, while the Israeli police and the Israeli security in that place, they become crazy how the people organize that. Now, for that, I trust the mentality of prisoners. I trust the energy they have. Even some of them, they spend long time in jail, and they give more energy and in charge even the new prisoners in this jail. Ok, ha raccontato il momento in cui poi appunto hanno iniziato tutti a cantare insieme, come inizialmente ha iniziato qualcuno, e il fatto di sentire i propri compagni che cantavano ha portato altri il coraggio di cantare, e come questa canzone in qualche modo si sia poi alzata dall'intera prigione. Quindi immaginate tutte queste migliaia di persone che cantano contemporaneamente, urlando all'improvviso, e prigionieri. E Nagy continua a ripetere che lui ci crede in questi prigionieri, proprio perché in questo modo l'effetto è stato dirompente anche sulla psiche degli israeliani che li stanno tenendo lì in detenzione. E le ha detto proprio: la polizia è diventata pazza, nel senso che non riuscivano a capire come cacchio hanno fatto a organizzarsi in questo modo, cioè 12.000 persone che iniziano a cantare tutte insieme allo stesso orario la stessa canzone, non riuscivano a capire come fosse possibile. Now I would like you to hear the, of course it's in Arabic, but I will try, with many people they can hear us, they can understand very well the song. Yes. Okay. Yeah, which is, I don't have a good voice, but I would try. Okay. Now, ya naqab kuni irada, kun majdan wa riada, kuni sayfan, kuni darsan, min durus al-intifada, ya naqab kuni irada, arabuki la qabran, فقلبنا القبر زهرا واحلمنا الشمس فجرا لا لأنماط الإبادة ورشفنا الحر كأسا وعشقنا الرمل همسا وحلمنا الليل عرسا دولة ذات سيادة قد بنينا الآن صرحا شاهدا كم فينا جرحى كم شهيدا قال مرحى مرحى مرحى للشهادة ها هم أطفال الحجارة يشعلون الأرض نارا صوتهم جاء جهارا ثورة تحيي البلاد نحن سيف الشعب نصل ولسيف العز نصل قلنا لا لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة يا رب كوني إرادة. Yes. Wow, Nagy. We don't understand the meaning, but thank you. Thank you. We just understand some words. Yes, I mean, you said before what is about, but now if you look to the desert, if you look to the desert after this song, you can see a lot of flowers, the grass, the trees, as a forest. Ah, ci ha detto che Giulia è rimasta incantata a vedere l'immagine nella sua mente. Ci ha raccontato come questo deserto permette di popolare di fiori, di alberi, una foresta. E questa canzone permette di popolare quel deserto di cui parlavamo prima con fiori, alberi e una foresta. Quello che ci ha recitato adesso in questo momento è la canzone, che in realtà è lunghissima. A meno che forse io non ho sentito alcuni brani, alcuni pezzi si ripetono. E ci ha fatto questo regalo. Thank you, Naji. Shukran. Now, the freedom, it's what you believe. The freedom, it's what you believe, not you have lived. Like, the life, it's so hard, but if you believe that you are free, in your mind, you can be creative, you can change the atmosphere, you can change the mentality of the others, you can encourage them and make them more strong to face all this problem and to be really, it's a talent, it's something that they can do, and they start trust themselves, believe in them, in themselves, and continue struggling for their freedom. Ha detto una cosa molto bella, ha detto che la vera libertà è quello in cui credi, e ha detto che nel momento in cui tu credi di essere libero, puoi in qualche modo cambiare, grazie al tuo pensiero, alla tua mente, l'atmosfera, quello che è intorno, la realtà che ti circonda, e questo ti fa diventare concretamente più forte. Quindi è in qualche modo un processo di autocondizionamento psichico che ti permette poi però di avere realmente una forza maggiore, una speranza anche, chiaramente. Yes, now for the administrative detention law. Now, this is kind of law. It's, I mean, it exists somewhere, many times in South Africa, in Ireland, whatever, and it still continues somewhere in European country as well. But in Palestine, the administrative detention law, it's very intensive. And the state in general, the occupation state, they're trying to judge the people by this law, because it's connected. There is no, I mean, the court, it's completely ordered by the Shapak and by the Israeli security. Now, for that, you just arrested and you don't know what will happen. Now, there is no excuse for your, I mean, if they arrest you, they are not even approving that. There is no approve that, you know, judge you in the court. Now, they take you as some person, they believe, the security, Israeli security believe that you will do something for the future, but they can't approve it. Now, when they arrested you, they will take you to the court after investigation, ask you many questions, and if there is no approve, immediately you will go to the court, and the court, the judgment, even in the military court, they will look at your file as a security file, even though they don't allow even to read your file at all, just they're hearing the proposition of the Israeli security. Ok, allora adesso ha cambiato argomento, conosce Lance peraltro, e ha iniziato a parlare di che cos'è la detenzione amministrativa. Allora, la detenzione amministrativa ci ha ricordato che in realtà è una misura che esiste anche in alcuni paesi europei, adesso non ha detto quali, ha detto che esisteva in Sudafrica, e questo ci riporta anche a ricordarci come l'apartheid sudafricano sia stato forse meglio dell'apartheid che attualmente stanno vivendo in Palestina. Insomma, ci siano delle connessioni. E in che cosa consiste? Consiste nel fatto che viene data un'ordinanza, quindi non c'è un'inchiesta, non c'è un giudice, non c'è niente. È un'ordinanza di arresto che può durare fino a 6 mesi per una persona, appunto. E Questa persona non, quando viene arrestata non gli viene detto il motivo per cui è arrestata, gli viene semplicemente detto che è in detenzione amministrativa, viene portata alla corte e gli vengono fatte diverse domande. Ok, Nagi? No, che praticamente non, i detenuti, chi viene arrestato tramite questa legge non può accedere al proprio file. Spesso giocano anche la carta del non far sapere quando si terrà il giudizio, e quindi la persona non può ricorrere ad avvocati, non può nemmeno ricorrere alla propria famiglia. E come ha già detto Ricky, non ci sono, di solito non vengono mostrate prove, si agisce seguendo appunto questa legge e parlando di una pericolosità dell'individuo. Now, when we are arrested by this law, the meaning it's okay to keep you for 6 months. The court, they will judge you 6 months. But in the same time, you continue your life as administrative detention prisoner. But in the same time, they deal with you as criminal or as terrorist. There is no law inside. I mean, you are arrested, but there is nothing approval. Just they keep you for, I mean, administrative detention. But in the same time, they deal with you as terrorist, which is they don't approve that, in fact. And people, they have to know that this is really apartheid system, and this is apartheid state. And when you finish 6 months, they can add you, and they done for sure. They can add you another 6 months, not before 1 week, not before 1 month. They don't take you to the court. Immediately they decided in the last second to add 6 months more. It's mean that they want to against your brain. They planning for you to be crazy or to lose even your brain and your mind. Ok, ha spiegato come dopo che viene arrestato appunto per ed entri in detenzione amministrativa, il giudice ha 6 mesi per giudicarti, quindi c'è questo termine entro cui devi subire un giudizio. Il problema qual è? Che in questi 6 mesi tu però sei trattato come se già fossi colpevole. L'accusato non sa neanche di che cosa, ma nemmeno sei trattato come se fossi un terrorista, ha detto. Quindi stai in prigione e non hai nessuna garanzia. È come se loro, dal momento in cui ti arrestano, decidessero che tu sei colpevole, e allora devi iniziare a come si dice? La pena a scontare la tua pena. E dopodiché, questo dura per 6 mesi. Dopo 6 mesi c'è una nuova sessione della corte in cui si decide se continuare con la detenzione amministrativa oppure no. E il problema è che anche qui non è che viene avvisato, diciamo, una settimana prima, qualche giorno prima del fatto che tu continuerai a scontare la pena oppure no, ma lo vieni a sapere all'ultimo momento e la nuova detenzione amministrativa dura per altri 6 mesi. L'idea è quella che vogliono, l'ho detto proprio, vogliono renderti pazzo, vogliono in qualche modo distruggerti mentalmente. Giulia doveva fare una correzione? Now, Niente, posso. by this law, there is a lot of like 1,000 examples, but I will take my nephew as example. My nephew, his name is Ghassan in Ofer jail right now, and he's like 39 years old right now, but he spent 16 years in his life, more now, more 16 and a half year in Israeli jail by administrative detention. Now, each time they add more months, after 2 years, they release him for 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, and they bring him back for the same law and they judge him 6 months more. Now, he's still in jail right now and he should be released next month, but we believe, me and him and his family as well, we believe that they will add more until 2 years after that, he was released for 3 or 2 months. We know that. Ci sono tantissimi casi al momento in Palestina di detenuti proprio con questa legge, con la detenzione amministrativa, ma Nagy ci vuole parlare di, in particolar modo di suo nipote, Ghassan, che ha 39 anni e in totale ha passato 16 anni e mezzo nelle prigioni israeliane con la detenzione amministrativa, quindi non è mai stato aperto un vero processo, delle prove contro di lui. È da parecchi anni che lui continua ad entrare ed uscire dalla prigione con la detenzione amministrativa e adesso al momento si trova appunto in prigione e in teoria dovrebbe essere rilasciato il prossimo mese, ma Nagy e la sua famiglia temono che anche questa volta verrà prolungata di altri 6 mesi la detenzione amministrativa e che quindi neanche questa volta lo rivedranno. But I mean it's not really secret what I am going to tell you, that last time when he released after 1 week the Israeli investigator responsible about the area, they sent him an invitation to interview him. And for sure, after 1 week, he will not refuse that because he don't want to be wanted, you know. And okay, we support him to go to see what he is, what he wants. When he went there, he told him since the beginning, I don't want to hear you. I don't want your answer. I will not ask you any question right now, but I will tell you something. Put it in your head that when you are outside, always worry. You should be inside. I will give you for a while to spend with your family, and after that you will back in jail. That's all. And he done that. Ci vuole raccontare un particolare molto inquietante riguardo alla detenzione amministrativa di suo nipote. L'ultima volta che è stato rilasciato, dopo una settimana, il responsabile dell'area di Decia delle investigazioni dell'esercito israeliano l'ha fatto chiamare per un colloquio e Ghassan ha deciso di andare perché non voleva altri problemi, voleva essere nella posizione della ragione. È stato supportato in questo ed è andato e l'investigatore gli ha detto molto chiaramente che non aveva nessuna intenzione di fargli un interrogatorio, che non aveva nessuna domanda da fargli, ma che per l'investigatore saperlo fuori dalla prigione era un problema e che quindi gli avrebbe lasciato qualche settimana, un mese per poter stare con la sua famiglia, ma che l'idea di saperlo libero non gli piaceva affatto e che quindi l'avrebbero presto arrestato un'altra volta. Now, yeah, this is in general the situation for administrative detention prisoners, and if there is a question for sure we can answer, and I would like to go to the next step. If you don't have any question for that, okay, we can continue. I don't know. What do you think? No, we can continue, Nagy. Okay. Now, in Palestine, and especially I will not talk about all Palestine, but yeah, for sure I will take Daesha as Mohammed Daesha as example. Now, immediately after the quarantine time and the virus or whatever, now immediately the activists start to talk to each other what we can do, how we can organize ourselves. It's coming from our experiences, actually, during the curfew time, the occupation, how to deal, whatever. And we succeed immediately after 1 week to organize ourselves as a huge group, trying to support the families, people they stop to work, poor family, they don't have to eat and they need medicine, whatever. Now started the many people involved in this kind of committee, let's say, with many activists, and they start asking each one from his way how we can find support to the families and people. Now we succeed to organize ourselves from the first week and we developed that. We made in, we done a lot of mistake actually, but slowly start very fastly. I mean, changing the situation and start to work with a less number of people, because there is hundreds of people in the beginning. They come as a volunteer to do that, but finally now with a little group, now they start making lists with poor people and people affected by corona, whatever, to pass to them some food, some medicine, some whatever, any kind of help to their houses. Ok, adesso ci ha detto che ci parlerà un attimo della situazione palestinese, in particolare prendendo come esempio quella di Deisha, perché è il campo profughi in cui lui si trova. E ha detto una cosa all'inizio, ha detto che la situazione di occupazione israeliana in qualche modo ha aumentato la capacità di comportarsi in maniera solidale tra i palestinesi, tra tutti loro. E quindi la prima cosa che si sono chiesti nel momento in cui questo virus ha iniziato a diffondersi è stata il come ci possiamo aiutare a vicenda, come possiamo supportarci. Now the good thing is that usually in refugee camps in Asia especially there is a very strong network between the political party as well and even the police with PA this time with coronavirus, because they start blocking the street and all, and they, somehow they don't make it complicated for our movement when we try to bring some stuff, something they help us. To be honest, now the police in the street, they are as the same team, which is, we don't talk about politics right now, just we talking about the quarantine time and how we can manage all together to be as a group to help the Palestinian families and to protect them from the coronavirus. Ha detto che si sono creati dei veri e propri gruppi solidali di persone che si occupano di chi è in condizioni magari economiche sfavorevoli, che quindi fanno in modo di fornire del cibo, e di fatto si è creata una vera e propria rete solidale per supportarsi a vicenda. E diciamo, in questa situazione particolare della quarantena, la polizia palestinese in questo momento cerca a suo modo di aiutare e facilitare anche queste operazioni di solidarietà e non intralciarle, proprio perché si è sviluppato questo grande senso di comunità in cui tutti si sentono vicini proprio per contrastare il virus e quindi appunto essere insieme ad affrontare questa situazione. Now I can say like you know, we don't even with our organization we done a lot of mistake, but in the same time I'm not sure that we can give like 100% result for sure. Not we are not heroes, we are not I mean, yeah, we are human beings and we are activists. We're trying to pass without any problem, any mistake, but it's happened. Now for that, when we talk about 2,850 families inside the camp, now I'm not sure that we can cover everybody. Now at least when we decide the list of families to support them, yes, we can reach them, but we don't have enough for everyone. And I think the solidarity movement also in our society with our social rules, there is, I can believe totally 100% that people, they will not stay without food. No one stay without food. If they didn't get support from his family, he will get support from neighbors, from others, from the solidarity movement. Now, always we are okay on that, and our experience, we can talk and use our experience during the 45 days curfew under the occupation time. Now, we succeed all the time, even to support the families and all, and to keep resisting even to against the Israeli soldiers when they attack the camp. Dice appunto di come grazie a questa struttura solidale riescono a far fronte alle necessità e ai bisogni di più di 200 famiglie. Lui ribadisce anche il concetto che sono esseri umani, sono anche loro in difficoltà, quindi si possono anche commettere degli errori, ma in questo caso la cosa importante è proprio il mettere a servizio degli altri la propria esperienza per andare incontro alle necessità, ai bisogni di tutti quanti e fare fronte non soltanto alla diffusione del coronavirus per bloccarlo, ma anche contro l'occupazione israeliana. Now, the good thing is that the people under this campaign, in general, everybody are happy to hear that because many people they get support, even not all of them, but at least there many people they get support from the community. Many people they get support and they respect even, slowly, not immediately. When they say we have it's a quarantine time and you have to stay at home, whatever. But some people they don't respect it. They go whatever for a reason. But there is a lot of activists also on the street. Ask them, please, if it's not necessary to get out, you can go and stay at home. If you need anything, just let us know. We can help you for that. And you can't see now. You can see like. Somehow the movement it's less and less and less, and I hope that we don't have more cases soon to finish this quarantine time and the coronavirus in Palestine. E che appunto magari all'inizio non tutti avevano compreso perfettamente la gravità della situazione, ma dopo 45 giorni di completo lockdown e facendo anche un'azione capillare, spiegando alle persone perché è fondamentale in questo momento rimanere a casa, pian piano tutti hanno compreso la vitalità dello stare a casa e fare attenzione alla propria salute, della propria famiglia, e c'è stato proprio anche un movimento di attivisti che hanno fatto in modo di sensibilizzare le persone e fare rete in modo tale se hai bisogno di qualcosa faccelo sapere e noi provvediamo, ma la maggior parte delle persone ora è a casa e non si muove. Now this is in general. I don't know if I have to add something or just only to hear your question, whatever. No, I think you explain a lot of things and very very well, very in a very specific way, and I don't know. I have like a warm message for the Italian people in general. We love Italy. We love the Italian people and we believe their struggle and always we are belong them. I don't talk about the government for sure. I'm talking about the people, the inhabitants, the citizen, whatever. Keep strong, and we have all to think well after the quarantine time, after the coronavirus, where we should be and how we can struggle. We have to create our own way for our freedom in this kind of condition. I am really very sad for the Italians. I am really crying for Italians because I never thought that the people they were suffering too much under there between two brackets, democratic states. You are not democratic states. Take care of yourself as nations and try to create your own way to struggle to get your freedom. Nagy ha voluto mandare un messaggio a tutti compagni, amici italiani. Lui ci tiene a sottolineare che è sempre stato vicino alla popolazione italiana, ama questo popolo e questa terra e chiede di farci forza, di resistere a questa situazione e trovare anche noi, ognuno, la propria soluzione creativa per uscire da questa situazione e chiederci veramente che cosa vogliamo noi dal futuro, proprio perché secondo lui ci troviamo, per come è stata gestita, per quello che è successo, non si tratta di uno Stato democratico, e quindi trarre forza da questo momento, pensare veramente a come vogliamo cambiare, ognuno in modo creativo e per il bene di noi stessi, ma della collettività, trovare veramente la, la soluzione per uscire da, da questa quarantena. Yes. Thank you, Naji. I hope the Italian people who are listening, they will take your words and take care of your words and your message, and think about also of the the example you said about the Salah song, because I think is a very strong and can be an example for us, really. I will translate it and I will send it to you. You can sing it in, because you have very, very beautiful voice. Now you can sing it in radio. Thank you. Thank you. Yes, I will share with everybody. Okay. Thank you, Naji. Really was very interesting and sensitive in the same time. Thank you. Thank you. Thank you for you. And I hope soon we will have another subject for, you know, for Nakba Day. Now we are preparing soon. And please, if you ask me, I have a lot of proposition also for you. Maybe we can talk later about For sure. For sure. I will. Thank you so much. And good luck and continue. Thank you, Naji. Bye. Say hi to everybody. Viva, viva Italy. Viva Italy. Viva Italian. Viva Palestine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, team. Bye. Beh, a me lascia sempre basito come dalla Palestina arrivi una solidarietà verso di noi, e ancora di più come arrivi un esempio di come riescono, nonostante la condizione in cui si trovano, a, come sono riusciti ad auto-organizzarsi, a, come ci raccontava anche l'altra volta Bilal, mi pare, come siano riusciti a organizzarsi all'interno dei campi profughi per gestire questo virus. Pare che l'esempio di solidarietà parli da sé. Sì, io veramente... prenderò queste parole di Naji, ma anche di Miassar, proprio per renderle, come ha detto lui, in modo creativo, in base alla situazione che ognuno di noi sta vivendo, per ricrearsi ogni volta, ogni giorno, e cambiare veramente la situazione. Sì, sono sempre un grande esempio, sì, di resilienza, esatto, in particolar modo, e comunque trasmettono una forza, nonostante tutto quello che passano nelle loro vite, attraverso la loro voce. Quella di Miassar è sempre, sembra sempre felicissima, lei è felicissima di poter raccontare le sue esperienze e quindi trasmetterle, perché ognuno le possa prendere sia per, come testimonianza, ma anche come esempio per se stesso. Per se stesso. Io direi mandiamo una canzone. Questa è una cantante che piace molto a Naji, spero che sia ancora in ascolto, e io gliela dedicherei. لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. حبيبي ندهني رجعت اليمامي زهر التفاح حبيبي ندهلي قال لي الشتا راح رجعت اليمامي زهر التفاح وانا على بابك ندي والصباح وبعيونك ربيعي نور وحلي انا لحبيبي وحبيبي تخرج قهقهة فاجرة من جوف الضابط هل قتل جفرة؟ كانت صورة المسيح على حائط غرفتها في باب القدس الليلة جئنا لننام هنا سيدتي يا أم الأشجار وأم الأنهار وأم العنب وأم المرج الأخضر هل قتل جفرة؟ هنا سيدتي جئنا الليلة فلننام في صدر الفاشست أغني للسيدة الحاملة الأسرار الثورية للشجر المحروق الأخضر في ذاكرتي لرفاق لي في السجن أغني لرفاق لي في القبر أغني ولبيروت الطلقة أغني ولجفرة سأغني جفرة أمي إن غابت أمي جفرة الوطن المسبي الزهرة والطلقة والعاصفة الحمراء جفرة إن لم يعرف من لم يعرف غابة زيتون ورفيف حمام وقصائد للفقراء جفرة من لم يعرف جفرة فليدفن رأسا في الرمضاء أرخيت سهامي قلت يموت القاتل من لم يدفن وجه الغول الأصفر تبلع الصحراء جفرة كانت في قصر الأقطاعي تنور جفرة كانت في الجبهة تحمل طلقتها وتبوح بالسر المدفون على شاطئ عكا وتغني وأنا لعيونك يا جفرة سأغني بالسر المدفون على شاطئ عكا وتغني وأنا لعيونك يا جفرة سأغني سأغني جفرة أمي إن غابت أمي جفرة الوطن المسبي الزهرة والطلقة والعاصفة الحمراء جفرة من لم يعرف جفرة فليدفن رأسا في الرمضة. أرخيت سهامي قلت يموت القاتل من لم يدفن وجه الغول الأصفر تبلع الصحراء. جفرة كانت في قصر اللطاعي تنوح، جفرة كانت في الجبهة تحمل طلقتها وتبوح بالسر المدفون على شاطئ عكا وتهني. وأنا لعيونك يا جفرة سأغني بالسر المدفون على شاطئ عكا وتهني. وأنا لعيونك يا جفرة سأغني. جفرة كانت في قصر اللطاعي تنوح، جفرة كانت في الجبهة تحمل طلقتها وتبوح بالسر المدفون على شاطئ عكا وتهني. وأنا لعيونك يا جفرة سأغني بالسر المدفون على شاطئ عكا وتهني. وأنا لعيونك يا جفرة سأغني. وأنا لعيونك يا جفرة سأغني. وأنا لعيونك يا جفرة سأغني سأغني. Eccoci di nuovo qua per l'ultima volta oggi. Eccoci qui. Ci siamo riapparsi per salutare. Sì, siamo un po' stanchi anche. Sì, è stata bella, bella intensa oggi come puntata. È durata anche più del solito, sbaglio? Sì, decisamente di più. Ok. Io so che per la prima volta finalmente mia sorella e la sua famiglia, quindi i suoi quattro bimbi, i miei quattro nipoti, sono riusciti ad ascoltarmi. Magari mi stanno ancora ascoltando. Olè. Ciao Pisquani. E anche mio cognato, spero. E vabbè, no, io sono veramente provata. È stato molto... Sì, poi tra le difficoltà della traduzione in diretta, sì, non si sente bene, eh? E sempre, sono sempre stare con il massimo dell'attenzione. Sì, e poi appunto sono persone molto importanti, almeno per me personalmente, e quello che dicono, quello che trasmettono, i messaggi che ci mandano sono altrettanto, secondo me, profondi e fondamentali. Quindi c'è sempre anche da parte mia paura di tradurre poi magari qualcosa di sbagliato, di non dire giusto, e che sì, vabbè, sarebbe quindi un peccato. Quindi riascolterete il podcast... Potrete poi farci le critiche di traduzione. Esatto. Il podcast uscirà tra qualche giorno, lo manderemo sulle nostre tutti i canali, sul sito di Archive, e lì troverete anche la tracklist. Ci trovate su Facebook, pagina di Radio ZAM. Dove potete anche scriverci le vostre opinioni, sì, idee, critiche. A breve anche su Telegram apriremo un chat a cui potrete scrivere direttamente, ci stiamo lavorando. Se no al momento adesso c'è solo un canale Telegram dove voi potete ricevere le nostre news sulle dirette, i podcast, anche i consigli bibliografici che diamo. E c'è Instagram con Radio Z Misud, anche lì vi... mandiamo tutti i giorni tutte le dirette, le informazioni della nostra radio. Insomma, ho detto tutto, credo. Sì, mi pare proprio di sì. Oggi che cosa troviamo dopo questa trasmissione? Non mi ricordo più. Controlliamo il palinsesto. E io intanto vi ringrazio per averci seguito e ascoltato anche oggi. Speriamo di avervi fatto avvicinare un pochettino alla Palestina. E Ricky, hai controllato? Sì, allora alle 19 in realtà non sarà in diretta dalla nostra radio, ma da quella di Non Una di Meno ci sarà il collegamento con Radio Lotto tutto l'anno, quindi basta recarsi sul loro canale Telegram Non Una di Meno Milano, e niente, da lì ci sarà il link tramite cui ascoltarli in diretta. Se no potete ascoltarli anche tramite il nostro, perché lo mandiamo in diretta. Sì, siamo super coordinati con le compagne di Non Una di Meno e affrontiamo questa quarantena tutte insieme. Alle 19. E va bene, basta, vi lasciamo con l'ultima canzone, una delle mie preferite, e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao. Thank you.